Letture di Radio 24. Molti gestori stanno cercando di convincere i clienti a ricevere solo in via telematica le bollette di luce e gas. Ma visti i frequenti errori e le cartelle pazze, forse è meglio continuare a conservare su carta le vecchie bollette, scrive Marco Belpoliti in un commento pubblicato sulla Stampa. Ho ricevuto nelle ultime bollette telefoniche, in quelle del gas e dell'elettricità, un foglio in cui mi invitano ad abbandonare il tradizionale sistema informativo su carta e passare al ricevimento informatico del documento via posta elettronica. I gestori, cui pago i consumi mensilmente o bimestralmente, cercano di convincermi a optare per il risparmio di carta. In cambio, propongono la partecipazione a estrazioni di premi, punti da accumulare e altre offerte simili a quelle che ricevo al supermarket, e mai sconti sulle bollette. Il nuovo sistema comporterebbe dunque la conservazione delle bollette su supporto elettronico, in un archivio interno al computer, che può sempre andare in tilt, rompersi o alla peggio essere rubato, cosa che mi è già capitata, oppure in uno esterno, nel web. Naturalmente il risparmio di carte e di spese postali per l'invio delle bollette è una buona cosa. Evita di abbattere alberi e di disperdere ulteriori risorse. Farò così? Non fidandomi fino in fondo dell'elettronica, il modo più semplice è ancora quello di stamparli io stesso, il che comporta un vantaggio per il gestore, quanto risparmierà se tutti aderiranno alla sua proposta, ma un costo in più per me. Carta e cartucce del toner della stampante costano. Forse sto esagerando. Le bollette non sono poi così preziose. Perché conservarle in modo religioso? Tra i beni materiali e immateriali che mi ha lasciato mio padre, c'è un foglietto che ho tenuto per anni sul mio tavolo. Ricevute, conservarle conviene. Un memento e soprattutto un punto d'ancoraggio contro possibili errori che negli ultimi tempi tendono a ripetersi con una certa frequenza, nonostante l'informatizzazione del mondo. Questo prospetto dà la misura concreta della necessità di conservare gli incartamenti. Bollo auto 5 anni, documenti bancari 10 anni, contravvenzioni 5 anni, carte condominiali 5 anni, mutui 5-10 anni, nettezza urbana 10 anni, radio e televisione 10 anni, telefono fisso 5 anni, telefono mobile 10 anni, utenze domestiche 5 anni, pagamenti IVA 10 anni, contributi previdenziali 10 anni. Ho verificato sul web se qualcosa era cambiato. In alcuni casi il tempo è persino aumentato. Data l'evoluzione rapida dei sistemi informatici, l'invecchiamento delle memorie esterne e l'obsolescenza dei computer e dei programmi, l'unica cosa che mi conviene davvero è possedere tutta la documentazione su carta. Perciò non ho dato corso alla richiesta dei gestori, i quali, oltre a offrirmi la soluzione per posta elettronica, per risparmiare hanno anche reso virtuale la loro presenza spaziale attraverso i call center. Sarò un dinosauro, ma, come diceva mio padre, carta canta, un salvagente nell'oceano del web. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Belpoliti, Bollette sul web? No, carta canta, dalla Stampa del 6 giugno. Letture di Radio 24. Fino a qualche anno fa, l'Italia era il primo produttore mondiale di mais, ma il divieto di usare alcuni pesticidi ha determinato un calo nella produzione e così siamo costretti ad importarlo. Vietiamo il nucleare e importiamo energia dalla Francia nuclearizzata. Vietiamo gli OGM e importiamo soia transgenica a tutto spiano. E sentite un po' l'ultima. Vietiamo i pesticidi che ammazzano la bestia nera del mais, ma apriamo le porte a quello coltivato con ogni genere di insetticida. Proprio così. Quella del mais è l'ultima contraddizione del nostro paese, rivelata da uno studio Nomisma che lancia un allarme. L'Italia, grande produttore di mais, ha perso il primato mondiale. Nella classifica è scesa dal primo al quarto posto dopo Spagna, Stati Uniti e Francia. Negli ultimi 5 anni il calo della produzione è stato del 19% e la domanda è rimasta invariata. La perdita economica oscilla dai 150 ai 200 milioni di euro all'anno, cioè circa 1 miliardo di euro in totale. Le cause di questo tracollo sono diverse, ma ci ha messo lo zampino pure l'abolizione, per decreto, dell'utilizzo di un pesticida neonicotinoide che ammazza una bestiaccia cattiva, diabrotica, ma danneggia irreparabilmente le api. E così dobbiamo importare il 21% del mais dall'estero. I paesi più appetibili in fatto di prezzi sono l'Ungheria e la Romania, che utilizzano anche gli insetticidi neurotossici, killer delle api. Questa è coerenza? Verrebbe da chiedersi? No, ovviamente. Se lo fossimo, dovremmo escludere questi paesi dalla nostra lista di importatori preferenziali. Ma il mercato è mercato, signori, e così una scelta va fatta. Meglio sarebbe salvare capre e cavoli, cioè il mais e le api. Si può fare? Qualcuno giura di sì. Come l'agronomo Amedeo Reineri, docente all'Università di Torino, che ha contribuito, assieme ai ricercatori del Centro Studi Nomisma, alla ricerca sul mais e le prospettive di crescita del settore, commissionata da alcune aziende di agrofarma, Federchimica. Con l'uso dei neonicotinoidi si recupererebbe tra il 4 e il 6% della produzione nazionale, e questo è stato provato da un esperimento effettuato su 120 campi. E come la mettiamo con la moria delle api? Bisogna utilizzare adesivanti migliori al seme e modificare le macchine agricole in modo da non disperdere le polveri nell'aria. In Francia molto è stato fatto e le api non muoiono più. Allora è tutto semplice, verrebbe da dire. Non proprio, perché questo decreto viene giudicato una vera tagliola che non permette di fare sperimentazioni a lungo spettro. Nessuno vuole ammazzare le api, precisa l'agronomo, ma serve un approccio pragmatico. E in Italia non si può fare ricerca su almeno 1000 ettari per effettuare verifiche di campo. Insomma, salvare capre e cavoli si potrebbe, anche se non tutti sono d'accordo. Gli esperti di api, per esempio. In Francia la cosa funziona perché non hanno alberi in fiore, ma solo coltura intensiva di mais, spiega Vincenzo Girolamo, ordinario di entomologia dell'Università di Padova. La monocultura non attira le api. Ma l'esperto non boccia gli insetticidi, anzi. I neonicotinoidi sono stupendi, ma devono essere usati razionalmente, dove servono, e per il mais in passato se n'è fatto un uso esagerato. Cioè le api muoiono, ma nonostante questi insetticidi, il mais non produce di più. In ogni caso, sono d'accordo sulla sperimentazione, va fatta, e sono sicuro che in futuro si riuscirà a trovare un sistema per abbattere le polveri. Lorenzo Furlan, dirigente di Veneto Agricoltura, è più categorico. Questi concianti sono giudicati indispensabili contro la diabrotica, spiega, ma in realtà, secondo un monitoraggio, i danni provocati da questo parassita americano sono insignificanti. Insomma, c'è una lotta sproporzionata in atto, soprattutto perché molti gestiscono i campi come delle fabbriche. Per Furlan, dunque, si può fare a meno del pesticida. La pensano allo stesso modo gli apicoltori, che dopo lo stop all'insetticida incriminato hanno visto rifiorire gli alveari. Il risultato è stato al di sopra delle aspettative. Nel 2008 ci sono stati 185 casi di moria, dopo la sospensione solo 3, precisa Francesco Panella, della UNAAPI. Il 2010, invece, è stata un'annata meravigliosa per le nostre amiche api. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enza Kusmai e ora importiamo pure le pannocchie, dal giornale del 13 giugno.